La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. Iniziamo questa serata con l'approfondimento di Dino Pesole, che oggi e settimana prossima ripercorrerà la storia dell'Italia repubblicana attraverso le figure dei presidenti della Repubblica, da Enrico De Nicola a Giorgio Napolitano. L'occasione per questa carrellata ce la dà il nuovo libro di Giuseppe Mammarella e Paolo Cacace dal titolo Il Quirinale, storia politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano, appena pubblicato dalla Terza. Da Enrico De Nicola a Giorgio Napolitano, 11 presidenti della Repubblica che con stile e personalità spesso molto diverse tra di loro hanno interpretato in oltre 60 anni il ruolo di capo dello Stato, contribuendo a determinare gli sviluppi della storia politica dell'Italia repubblicana. Ripercorrere le vicende che hanno accompagnato gli 11 presidenti della Repubblica è dunque una sorta di viaggio nella storia del nostro paese dal secondo dopoguerra in poi. Una storia che ora ci viene riproposta dal libro di Giuseppe Mammarella e Paolo Cacace dal titolo Il Quirinale, storia politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano, appena pubblicato dalla Terza. Cominciamo il nostro viaggio, che in questa e la prossima puntata della Storia e la Memoria ci condurrà all'interno delle 11 presidenze della Repubblica, con i primi presidenti del dopoguerra. E lo facciamo proprio in compagnia di Paolo Cacace, uno dei due autori del libro, saggista ed editorialista del Messaggero. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito, Cacace. Grazie a voi. Il primo presidente della Repubblica è Enrico De Nicola, fine giurista, uomo di cultura ottocentesca che di fatto si trova a dover traghettare il paese che ha appena scelto la Repubblica con il referendum del 2 giugno del 1946. Enrico De Nicola riassume nella sua persona i requisiti necessari per ricoprire la carica di capo provvisorio dello Stato. È un uomo del Sud, un giurista napoletano puro sangue che, pur essendo da sempre di orientamento monarchico, non ha nascosto il suo atteggiamento critico nei confronti della corona durante il ventennio fascista. Ha fatto parte della Consulta Nazionale come presidente della Commissione Giustizia. Esita a lungo prima di accettare la nomina. È il pomeriggio del 26 giugno 1946 quando l'Assemblea lo elegge presidente con 396 voti su 504. La sua prima reazione è eloquente. Mi inchino con animo reverente e commosso di fronte alla volontà sovrana dell'Assemblea Costituente. La nomina avviene mentre da Parigi giungono le notizie sulle durissime condizioni del trattato di pace. De Nicola fa subito sapere che non intende trasferirsi al Quirinale. Allora, Paolo Cacace, quali furono i caratteri salienti della breve presidenza di Enrico De Nicola? Ma innanzitutto De Nicola fu, come si è stato già rilevato, aveva quei due requisiti fondamentali, era monarchico ed era uomo del Sud, quindi aveva un compito prioritario di pacificazione di un paese che si era diviso in maniera anche drammatica sul referendum istituzionale, e quindi lui, il suo primo obiettivo è stato quello di seguire questa linea di pacificazione che poi sul piano politico era consolidata e rappresentata dai governi presieduti da De Gasperi. Al tempo stesso De Nicola si trova a vestire i panni di legislatore senza leggi, cioè non c'è ancora una Costituzione, quindi deve istituire lui una prassi costituzionale nelle vesti prima di capo provvisorio dello Stato, poi quando sarà approvata la Costituzione per il breve periodo in cui sarà capo effettivo della Repubblica. E bisogna dire che De Nicola svolge con grande abnegazione, con grande scrupolo questo ruolo, istituendo delle prassi che poi saranno seguite dai suoi successori. Ecco, a proposito dei suoi successori, dopo la breve presidenza di De Nicola, al Quirinale si insedia Luigi Einaudi e il paese ha già scelto da che parte stare con le elezioni del 18 aprile del 48, vale a dire dalla parte delle potenze occidentali e della NATO. Inizia l'era dei governi centristi, appunto come tu ricordavi poc'anzi, presieduti da De Gasperi. L'ex governatore della Banca d'Italia imprime alla sua presidenza un carattere, come sappiamo tutti, di grande sobrietà. È la presidenza delle prediche inutili, come le definirà lo stesso Einaudi, Paolo? Certo, e bisogna dire che c'è una svolta con l'elezione di Einaudi, perché i partiti politici riprendono in qualche modo la loro autonomia ed Einaudi appunto è il presidente della maggioranza, perlomeno fino a un certo periodo del suo settennato, perché finché dura il predominio di De Gasperi sulla scena politica. Poi va detto che nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni praticamente di settennato, cambia un pochino l'approccio di Einaudi in conseguenza del ritiro di De Gasperi dopo il fallimento della legge truffa. A quel punto Einaudi riprende una maggiore iniziativa, eppure essendo stato personalità di altissimo livello e di grande rilievo anche nel quinquennio precedente, indica lui stesso dei presidenti. Nasce per esempio il governo Pella, che è il primo governo del presidente. Nella scia della crisi determinatasi all'interno della Democrazia Cristiana dopo la sconfitta di De Gasperi. Ed è Einaudi stesso che poi sviluppa delle iniziative autonome, per esempio Einaudi è il regista del memorandum su Trieste, è lui che in qualche modo da dietro le quinte agisce attivamente per arrivare a quel risultato. Dunque un settennato fondamentale quello di Einaudi, fatto soprattutto per il grande rigore che lui come economista ha impresso alla politica italiana e ha dato al Quirinale per la prima volta un assetto molto molto stabile, molto forte anche dal punto di vista istituzionale. Nascono in quel periodo per esempio le strutture del Quirinale con i segretari generali, prima Picella, Carboni, che saranno delle vere e proprie architravi nella struttura quirinalizia. Einaudi accetta di risiedere al Quirinale a differenza di De Nicola e insomma la presidenza assume una sua connotazione precisa e una sua valenza politica, diciamo, molto più politica. Siamo arrivati al 1955 e ora il presidente è Giovanni Gronchi. La sua elezione al Quirinale coincide con i preliminari del vertice di Le Mans del luglio del 55, da cui nascerà lo spirito di Ginevra. Subito dopo si affermerà l'epoca della distensione. Gronchi, nel suo discorso programmatico, fa riferimento alle trattative, aggiungendo che l'Italia ha voluto e vuole la pace, nel rispetto reciproco della libertà e dell'indipendenza, nella sola preoccupazione di realizzare la più sicura difesa delle proprie tradizioni e dei propri istituti. Era l'espressione di quel neoatlantismo che si affermerà qualche anno dopo. Gronchi è un cattolico democristiano che però ha seguito un percorso diverso rispetto a personaggi come Scelba e De Gasperi. Più che un uomo di corrente, è un battitore libero, da sempre schivo da dipendenze e condizionamenti. Allora Paolo Cacace, i caratteri salienti della presidenza di Giovanni Gronchi. Gronchi fu eletto, come si ricorda, da una maggioranza trasversale. Fu una elezione totalmente diversa rispetto a quella di Einaudi e quindi la sua presenza, la sua azione riflette durante l'arco dell'intero settennato questa caratteristica di origine. Naturalmente il carattere essenziale del settennato di Gronchi fu quello del tentativo di creare le premesse per un'apertura del Partito Cattolico verso i socialisti. È un tentativo che Gronchi persegue con tenacia, spesso con atteggiamenti contraddittori, che durerà ben 8 anni dal momento della sua elezione ed è volto a spezzare il patto frontista che univa il Partito Comunista e il Partito Socialista. È un presidente molto interventista, soprattutto in politica estera, come è stato osservato attraverso questa scelta neatlantica che lui fa in accordo con Mattei. È il tentativo di stabilire un contatto privilegiato con gli Stati Uniti su molti scacchieri, tra cui soprattutto quello mediterraneo, in contrapposizione alla Francia e alla Gran Bretagna, ma al tempo stesso favorendo le iniziative autonome di Mattei, che come ben noto svolgeva una politica molto spregiudicata nell'area mediterranea, che era contraria agli interessi delle Sette Sorelle. Ora abbiamo pochissimi minuti, vediamo se ci riusciamo. Chiudiamo con la presidenza di Antonio Segni. Presidenza breve, Cacace, dal 62 al 64. Segni, la presidenza di Segni è il sigillo moderato, è una garanzia che viene offerta da Moro ai moderati della Democrazia Cristiana che non gradiscono l'apertura a sinistra. E quindi Segni, che vantava la lunga esperienza come notabile cattolico aperto anche però alle istanze sociali, era chiamato il bolscevico bianco perché per questa sua caratteristica, rappresentava il personaggio ideale per fornire questa garanzia. Bisogna dire che il biennio di Segni è contrassegnato anche da momenti internazionali molto, molto drammatici, sì. Basti ricordare la crisi di Cuba, e quindi non è un periodo irrilevante dal punto di vista istituzionale e politico. Segni conferisce alla sua presidenza uno stile moderato, sobrio, rispettoso della legalità e sotto sotto sempre piuttosto ostile nei confronti dei tentativi di apertura a sinistra, però non si sottrae, perché è lui che poi incarica Moro, che costituisce i primi governi di centrosinistra. Naturalmente il settennato di Segni è contrassegnato da quella luglio 64 che culmina con il cosiddetto piano Solo, con l'ictus che colpisce Segni durante un colloquio al Quirinale con Moro e Saragat, le cui modalità non sono state mai completamente chiarite. Sembra che Segni abbia avuto un malessere quando, dopo una discussione con Saragat per la nomina di un ambasciatore, e da allora non si è più ripreso, non si riprende più. E alla fine dell'anno poi avrà luogo l'elezione del successore. Ecco, e dal successore partiremo la prossima puntata. Per ora grazie a Paolo Cacace.